queste stelle appiccicate al cielo, in questa strada di periferia, sono contento di non essere solo a camminare verso casa mia. Con questo pezzo di canzone al vento e uno stipendio che non basta mai, sono felice di stare al mondo, perché il mondo sei tu. Nel mio panino ci finisci tu, in queste tasche così grosse e vuote.